dei troiani, ite, e la corte sia pronta questo giorno a celebrar. Di dolce speme a un raggio scema il mio duol. Minerva della Grecia protettrice, in volar furor dell'onde il padre mio. In mar di qui non lunge comparser le sue navi, indaga Arbace il sito che a noi toglie l'augusto aspetto. Non temer, difesa da Minerva e la Grecia è tutto ormai. Scoppiò sopra i troian l'ira dei nubi. Del fato dei troian più non dolerti. Ecco, abbian fine, principessa, i lor guai, rendo lor libertade. Io mai fra noi sol prigioniero fio, sol fiati parte che tua beltà legò carre ritorte. Ma all'amor mio dirai ero sorto a vampi. In questi accenti mal soffro un temerario ardir. E pensa, pensa e domande, oh Dio, Ciao. Consolarli adesso, ma perché tanto far non su a me stesso? Scendete le catene ed oggi il mondo fedele Sidon, suddita nostra venga due gloriosi popoli in dolce nudo avvinti e stretti di perfetta amistà. Elenarmo la Grecia e l'Asia, ed ora disarme e riunisci ed Asia e Grecia, eroina novella, principessa più amabile e più bella. vinto il nemico. Opra di me più degna, a mirar s'apparecchi, o principessa, vegga il vinto felice. Arbace viene. A quel pianto che annunzia, io signore, dei mali più terribili. Dio non vive il genitor. Non vive. Quel che morte far non poté filar, fece ne tuono l'inesorabil nume, ed è l'eroe più degno, ora il risappi, presso a straniera sponda, affogato morì. Ilia, delive, dal cielo soddisfatta sarai, barbaro foto, ora scellino. Ahimè, son disperato. Eppure d'un grande eroe, baci miei, lasciatemi per poco qui solo a respirar e al cielo addio confidar il passato affanno mio. Mezzo a flutti e scogli, dall'ira tua sedotto, a te lo scampo dal naufragio chiedei, e in olocausto il primo dei mortali che qui intorno infelice s'aggiri, all'are tue pien di terror promisi. Oh, voto insano, atroce, giuramento crudel, a qual de lumi mi serva ancor in vita, oh, qual di voi mi porge almeno aida. Thank you. come veggo. Ecco la sventurata vittima, ahimè, s'appressa. Oh, qual dolore mostra quel ciglio! Barbari, ingiusti nomi, ore nefande! Spiagge romite, e voi scoscese rubi, testimoni al mio dual spiate, cortesi di questo vostro albergo ha un agitato cor, quando lo spiegate di mia sorte il rigor solinghiorari. Vedo su quel lido sconosciuto guerriero, sgombra, o stranier, qual tu ti sia il timore. Eccomi pronto a tuo soccorso quello che in questo clima offrirte il può. Hai troppo amico dalle miserie mie, instrutto io fui a intenerirmi alle miserie altrui. Misero tu, che dici? Ci son conte le tue sventure a pien. Dell'amor mio cielo, il più caro oggetto, in quegli abissi spinto, giace l'eroe, Idomeneo è spinto. Ma tu sospiri e piangi. Chi è noto Idomeneo? Ah, che egli il padre. Oddio! Parla di chi è il padre? È il padre mio! Spiegiatissimi dai! Ecco, compiangi del padre mio il destino. Tuo padre son io! A nomi! Cosa sento? Qual trasporto? Lascia, genitore adorato, che al tuo piede con questo amplesso, ahimè, perché ti sdegni, disperato mi fuggi. A dove? A dove? Non mi seguire, te il vieto. Meglio per te saria il non avermi veduto or qui. Aventa, aventa, aventa il rivedermi. Al gelido orror m'ingombra i sensi, lo vedo appena, il riconosco, e a miei teneri accenti di un balen s'invola. Misero, in che l'offesi? E come mai quel sdegno i meritai? Quelle minacce, o seguirlo e vedere, sorte dura. Qual mi sovrasti ancor, più rea sventura. Ritrovo, e lo perdo, mi fugge sdegnato. Ritrova e lo perdo.